Voci dal giro. Ed eccoci al Giro d'Italia. Oggi era l'ultimo giorno per i velocisti, vince Guadrini, ma la tappa ce la racconta Ivan Basso. Ciao Ivan. Buon pomeriggio. Allora, tappa di oggi era la preparazione. Come l'hai corsa, come è andata? Ma è stata una tappa chiaramente facile, perché l'altimetria era molto così più facile rispetto alle tappe precedenti e alle tappe che ci aspettano, quindi gli uomini di classifica hanno corso chiaramente pensando a dopodomani, ultime due giornate dove può accadere di tutto. Ivan, invece vorrei che mi raccontassi la tappa di domani. Ma la tappa di domani è il primo grande arrivo in salita di questo giro, perché l'altro giorno a Cortina c'erano i 15 km di discesa, le salite di Cervini erano sicuramente più facili rispetto a quelle che affronteremo domani, quindi domani è un vero e proprio tappone, 5.800 metri di dislivello. Poche parole, tante gambe ci vogliono, questa è la regola. Chiedo ancora questo, da qui alla fine qual è la montagna che ti piace di più? In questo momento, nella posizione di classifica e con le ambizioni e le aspettative che io ho, non devo e non posso pensare ad una salita in particolare, devo pensare all'economia generale di questo giro e quindi cercherò di affrontare con lo stesso atteggiamento con i miei compagni la corsa di domani e di dopodomani e poi tireremo le somme. Grazie Ivan. Grazie a voi, buona serata. E salutando Ivan Basso, con il Giro d'Italia vi diamo appuntamento a domani mattina dopo il GR delle 7 e poi naturalmente nel corso della giornata, perché sarà una giornata importantissima al Giro. Buona serata. Voci dal Giro.